Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da maggio a dicembre del 1851. Terremoto devastante nel Vulture, Melfi rasa al suolo. In Francia colpo di stato di Luigi Napoleone Bonaparte e nuova Costituzione. Milioni di visitatori a Londra, l'esposizione universale è un successo. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Un terribile sisma ha colpito il Vulture, devastando Melfi. Il 14 agosto di questo 1851 due scosse di terremoto, la prima di circa 10 secondi, la seconda di quasi un minuto, hanno squassato la città della Basilicata, provocando almeno 1000 vittime e poco resta in piedi. Le 22 chiese della città sono un mucchio di rovine, le abitazioni inagibili sono almeno 200. Anche se conti precisi, in queste ore convulse non si riesce a farne. La macchina dei soccorsi è già partita. Il 15 settembre è arrivato in visita il monarca. Ferdinando II delle Due Sicilie ha ordinato la costruzione di 80 baracche, ha fatto costituire dei consigli edilizi per la ricostruzione e ha mosso la leva fiscale, sgravando di dazi la città e gli altri comuni maggiormente colpiti, tra cui Rapolla, Rio Nero e soprattutto Barile. Svolta autoritaria nella Francia repubblicana, siamo dunque all'estero, dove il presidente Luigi Napoleone Bonaparte ha preso il potere con la forza. Il 2 dicembre, anniversario dell'incoronazione dello zio ad imperatore nel 1804 e della vittoria di Austerlitz, 60.000 uomini hanno occupato i punti strategici di Parigi. Sono stati arrestati 78 deputati dell'opposizione e occupate le tipografie per impedire l'uscita dei giornali. Due giorni dopo le truppe hanno sparato sulla folla che protestava, centinaia le vittime, tra cui bambini. Poi, quasi alla fine dell'anno, il plebiscito che prolunga 10 anni la carica del mandato presidenziale. Si ipotizza che Bonaparte voglia farsi nuovo imperatore della Francia. E noi, in chiusura, ci spostiamo invece in Inghilterra, dove la regina Vittoria è raggiante per il risultato dell'esposizione universale. Milioni tra inglesi e stranieri in visita. Tra le migliaia di turisti che hanno affollato da maggio la capitale britannica si sono scorti parecchi architetti. Sono venuti ad ammirare e a studiare quella che promette di essere una nuova tendenza, una nuova sfida che i realizzatori del Crystal Palace hanno lanciato al loro settore. Il nome è stato inventato da un giornale satirico britannico e rende benissimo l'idea. Si tratta di un edificio enorme, lungo 563 metri, largo 138 per una superficie di circa 77.000 metri quadri, con la struttura in ferro e l'intera copertura in vetro. Non ci sono pilastri, non ci sono muri per questa meraviglia che sorge in Hyde Park e che ospita espositori e vere e proprie meraviglie. Tra i primi va segnalato Friedrich Colic Bakewell, fisico inglese che ha dimostrato come tramite le linee del telegrafo si possano trasmettere non solo messaggi in Morse, ma anche vere e proprie immagini. Tra le meraviglie invece ha brillato, è il caso di dirlo, il Koh-i-Noor, un diamante enorme di oltre 104 carati, circa 25 grammi, con una lunga storia di oltre 5 secoli e che da 2 anni dopo la conquista della città di Lahore da parte degli inglesi e di proprietà della regina. Vittoria è molto felice per come sono andate le cose in questa Expo, 13.000 espositori e 6 milioni di visitatori tra maggio e 15 ottobre, quando l'evento si è chiuso, un guadagno di 186.000 sterline. I soldi potrebbero essere utilizzati per aprire 3 nuovi musei, uno di arti figurative, dove pare comparirà il nome della stessa Vittoria e del principe Alberto, e 2 scientifici. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Andate a scaricare il nostro foglio quotidiano sul sito www.radio24.it, scriveteci su Facebook, visitate il nostro blog oppure mandateci un messaggio a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.